E buonasera a tutti, benvenuti sui colori dell'anima. Oggi è lunedì 12 marzo e saremo con voi, sono le 21.02, saremo con voi fino alle 22. E insieme a me, Monica e a Cristina, Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. ci sarà in studio Giacomo Lariccia, ciao Giacomo, Ciao. Ciao. e Antonio Montalvan. Ciao Monica. Rubato dalla trasmissione precedente perché è un ottimo viaggiatore. Io. Esatto. E allora, il tema della serata sarà appunto sul viaggio. Una domanda, diciamo, viaggio, umanità e creatività. Vediamo cosa si può dire. E allora, dopo aver presentato i nostri ospiti, lanciamo una canzone. Sì, lanciamo subito una canzone viaggiante, lanciamo in negrita. E bentornati in studio sui colori dell'anima, Radio Alma 101.9. Siamo in studio appunto con Giacomo Lariccia, un giovanissimo e bravissimo cantautore italiano, e poi questo frizzante viaggiatore Antonio Montalban. Allora, abbiamo introdotto un po' il tema della serata, ma non abbiamo detto il colore di oggi. Che Ah, colore giusto, giusto. è? C'è un colore Che ufficiale? colore? Qual è il colore del viaggio? Allora, secondo me il colore del viaggio è il verde. Il verde, verde che Antonio, colore non però? Deve essere. secondo No, adesso te lo dico perché. Secondo me il verde perché il verde mi fa pensare alla natura, agli alberi, alle escursioni. Io pensavo al verde dei prati irlandesi, quel verde Perché vuoi molto. andare in Irlanda? Ho voglia di Irlanda. Non sei soddisfatta della pioggia qui in Belgio, ne cerchi altra? L'Irlanda, esatto, proprio dove c'è anche il vento, lì è proprio meglio, proprio la bufera. Perché poi uno pensa, quando sta al sud, pensa che bei prati verdi, poi arriva qui e si rende conto perché i prati sono verdi, perché piove Esatto. 200 giorni l'anno. Quindi la perde un po' di fascino il verde dei prati, diciamo la verità. Però comunque il verde. A quanto pare, però, qua in studio c'era un'altra persona che aveva pensato al verde come il suo colore per il Sì, viaggio. io ho detto il verde Quindi eri perché. d'accordo? Sì, sono d'accordo perché ogni viaggio alla fine è pieno di speranza, no? Perché di trovare gente, di scoprire luoghi, di provare, di assaggiare piatti di cibo, non lo so. Verdi. Veramente il verde, no? Cibi verdi. Verdure. Verdi, verdure. Verdure. L'uomo verdurina. Sì. E invece Giacomo? Invece il mio colore, forse anche perché il mio viaggio ultimamente è diverso dai viaggi fisici, è il rosso. È rosso. Dell'energia, sì, dell'energia, del fuoco dentro, sì. Bello. Un colore Verde e caldo. rosso, un colore caldo. Verde e La bandiera rosso. italiana. Manca il Manca bianco. il bianco. Il bianco è in mezzo. Effettivamente. Ecco, bravo, giusto. Allora, tema della serata, il viaggio, umanità e creatività. Siete d'accordo? Cosa dite? Il viaggio, umanità, nel senso come conoscenza dell'uomo, la scoperta dell'uomo, e creatività. Ma il viaggio, che sia esterno, che sia un viaggio classico, che sia comunque un viaggio dentro se stessi, è sicuramente sempre un incontro con l'altro, un uscire fuori da sé per incontrare posti diversi, persone diverse, assolutamente, sì, senza dubbio. Ma anche a volte quando, soprattutto se viaggi da solo, io penso che il viaggio è un viaggio interiore, non lo so, io non ho viaggiato molto da solo, però le volte che l'ho fatto è stato incredibile, mi sono scoperto a me stesso, no? Non ho scoperto unicamente tutto quello che era intorno a me, ma soprattutto in me. Anche perché quando viaggi da solo c'hai sia tanti momenti di solitudine per pensare, proprio per stare solo, che i momenti in cui invece sei in contatto con persone che non hai mai visto prima e quindi una ricchezza nuova. E questo mi fa pensare adesso appunto a viaggi, perché poi avevo detto prima, parlando prima della trasmissione, che i miei viaggi ultimamente sono un po' calati per motivi così di vita. Però c'è stato un periodo in cui viaggiavo molto, e un periodo in cui, per la grande gioia dei miei genitori, quando ancora stavo a Roma, quando stavo a casa con i miei, viaggiavo in autostop in tutta Europa. Allora lì veramente passavi ore da solo, passavi ore in compagnia di persone che non avresti mai incontrato in nessun altro modo, dai camionisti fino ai, non so, persone più strane possibili. Per cui, per cui c'era un sacco di ricchezza e un sacco di intimità allo stesso tempo, insomma, di stare con se stessi e stare con gli altri. Quindi tu da solo hai fatto autostop da Roma a Bruxelles parecchie volte, sì. Sempre così, un po' perché durante l'università a Roma, Scienza della Comunicazione, viaggiavo per una, perché faccio parte di un'associazione europea di studenti di comunicazione, e quindi siccome i soldi per piegarmi il biglietto tutte le volte non c'erano, avevo ipotecato tutto quello che potevo ipotecare. Allora, da quanti giorni impiegavi? Ma dipende appunto, perché a volte partivo da Milano, facevo appunto il bluff con i miei genitori dicendo che andavo a Milano e partivo in aereo, mentre invece partivo mi facevo accompagnare al casello, oppure a volte da Roma, comunque insomma 3-4 giorni per arrivare, poi dipende dalle botte di fortuna, perché se incontravi il camionista che ti faceva Roma a Bruxelles, lì stavi tranquillo. Il camionista non avevi molta varietà di però arrivavi dritto al caldo, tranquillo. Perfetto. E quindi insomma italiani e spagnoli a spasso per il mondo. E Giacomo, invece tu come vieni qua a Bruxelles come musicista e per fare il conservatorio. Esattamente, giusto? Esattamente. Jazz. Sì, 12 anni fa. Esatto. Finita l'università, siccome era già, come dicevo prima, il mio piano era quello comunque di fare musica, e siccome in Italia non c'erano conservatori di jazz, allora ho deciso di venire a Bruxelles, fare l'esame di ingresso al conservatorio, che è andato bene, e doveva essere un'esperienza molto limitata all'inizio, perché 3 mesi, 1 anno al massimo, e poi il resto 12 anni sono qui. Dopo 12 anni. Esperienza un po' comune questa dei 3 mesi. Assolutamente, sì. Assolutamente, infatti mi viene molto da ridere quando sento qualcuno, sì io sono qui ma per pochi mesi poi torno, e dico sì, sì vabbè, ci siamo passati tutti, sì. Domenica scorsa sono arrivate due mie amiche, che salutiamo, Erika, sì, e Irene, per dire stiamo qua 3 mesi, vediamo cosa succede, poi ritorniamo in Italia, vediamo. Ma anche Antonio, mi anche sembra. Antonio, no, Antonio lui è già partito. Io sono venuto dall'inizio, ho deciso di partire all'estero e mi ho detto che non tornerei presto in Spagna. Allora, io non so se rimanerò qua, però so che non tornerò in Spagna in molto tempo. Bisognerebbe parlare anche di questo, non so se resterò qui, anche sì, questo, perché questo pure è un'espressione tipica. Esatto. Ah, sicuramente in pensione tornerò. Esatto, sono in pensione, esatto. E quindi invece, passando al viaggio del jazz e poi il viaggio verso la canzone d'autore. Dal jazz alla canzone d'autore, sì, è stato quello un viaggio non programmato a momenti anche inconsapevole, però poi è diventato insomma un'avventura e un viaggio totalizzante, insomma, perché questo disco, non solo questo disco che è appena uscito, che si trova, facciamo un po' di pubblicità, scusa, nei migliori negozi del Benelux e su iTunes, si chiama Colpo di Sole. Esatto. Perché questo disco è stato quasi come un parto, nel senso che la produzione del disco ha coinvolto un centinaio di persone che hanno sostenuto il progetto dall'inizio, una trentina di concerti che abbiamo fatto per la promozione del disco prima che uscisse il disco nelle case, e poi adesso sta nella fase proprio più come posso dire animata delle interviste, concerti, progetti, ricerca, insomma, per cui è veramente nel mio, non lo so, forse la vivo così, non so se è così per tutti, ma io la vivo proprio come una fase della vita, non solo un disco, un lavoro, ma proprio coinvolge un po' anche tutta la famiglia mia, mia moglie, i miei figli, che anche loro sostengono questo il disco. Papà. Sì, perché se quando parto, insomma, comunque c'è un'organizzazione che Yael, che forse ci ascolta adesso, non lo so, mia moglie deve assolutamente condividere, perché sennò insomma avrei già lasciato, oppure saremmo già divorziati. Certo, effettivamente, è vero. E invece tu, Antonio, perché Bruxelles? E perché non un'altra città? Perché Bruxelles? Perché io, quando sono venuto qua la prima volta, sono venuto per qualche conferenza del mio master, e io sapevo già che volevo andare all'estero. Io volevo andare all'estero da tanti anni, no? Ma non sapevo dove. La domanda era dove, no? E dopo venire qua ho visto che chiaramente questa città era per me, perché è una città molto internazionale, nel centro dell'Europa, si parlano due lingue, però tre lingue ufficialmente, e anche l'inglese, ma ci sono tanti stranieri, che alla fine c'è una mescolanza di culture che mi attirava moltissimo. Allora, Bruxelles. E allora, visto che a Bruxelles, che è nato un po', insomma, che ci siamo incontrati, tutte queste cose sono successe, Giacomo, il tuo viaggio di vita, allora raccontaci un pezzo del tuo viaggio di vita in una canzone. E live questa volta, quindi sì, attenzione, finalmente live. La canzone, direi, Povera Italia, poi dopo ci spieghi un po' di più. Si sente? Sì. Si sente. Aiuto, il microfono è corto, vediamo se si allunga. Vabbè, prima la canto e poi... E poi ne parliamo. E poi ne parliamo. Allora, grazie a Giacomo, bellissimo. Dunque, la domanda, allora, le domande su questa canzone. Sì. Come ti è venuta l'ispirazione per questa canzone? Vabbè, questa qui non è una canzone di un viaggio, ma è la canzone di chi sta fuori e di chi è dovuto partire. Ed è una critica alla peggiore Italia che è uscita in questi ultimi anni e che abbiamo visto ben rappresentata in tutti i mezzi di comunicazione, insomma, nel palcoscenico della politica soprattutto. E non solo della politica, proprio della cultura e della società in Italia. E quindi penso che sia un grido di rabbia di chi appunto è partito, ma un grido di rabbia che non è solo di chi sta fuori, perché credo sia condiviso anche da molte persone, solo che vabbè, il ritornello parla di una partenza comunque, e del fatto di non riuscire più a riconoscere l'Italia stando fuori, ma anche della fiducia che l'Italia comunque può rialzare la testa e mostrare altri lati di sé, come penso in parte in questo periodo stia facendo. Sì. Per cui è una canzone uscita adesso non so quanto tempo fa, però sicuramente non negli ultimi mesi, ma negli ultimi due anni forse è stata scritta. Quindi è un grido di frustrazione, di rabbia da parte di chi sta fuori. E la cosa bella è che quando abbiamo fatto uscire a dicembre questo pezzo, è stato fatto proprio da tantissime persone, è stato condiviso migliaia di volte su internet, da Bangkok fino al Sud America, all'Australia. Cioè, su YouTube c'è la possibilità di vedere. Sì. chi vede il video. E su Facebook è possibile vedere quante persone l'hanno condiviso, per cui è stato bello questo fatto di vedere che ognuno rivedeva una parte di se stesso. C'è chi mi ha detto, degli studenti mi hanno detto: ah, ho visto il tuo video dello studente universitario che va a studiare fuori. Il panettiere mi ha detto: ah, bello il video, mi sono rivisto pure io. Per cui ognuno attraverso quel video, che era generale, in cui c'è il videoclip, chi vuole può andarsela a vedere su YouTube, parla di una persona che arriva in un aeroporto, chiaramente lascia l'Italia e vede le parole di questa canzone condivise dalle persone che incontra per strada, e quindi scopre che non è solo un sentimento suo questo grido di Povera Italia, ma è una cosa abbastanza condivisa, e si è rivelato appunto tantissimo così, insomma, è stata una cosa abbastanza sorprendente appunto, ripeto, dall'estremo oriente fino all'occidente che conosciamo noi e via. È molto interessante il fatto che tu scrivi questa canzone sull'Italia proprio quando te ne vai dall'Italia. Ed è probabilmente è sicuramente un pensiero condiviso questo di molti come noi che siamo lontani dall'Italia, di vedere il nostro paese che vive un periodo molto difficile, però andare via, quando ho ascoltato questa canzone e soprattutto quando ho visto il video, mi sono resa conto di come anche andando via, anche cercando di ricominciare, di ricostruire qualcosa, alla fine è sempre della mia gente che mi interessa. Sì, è vero. Alla fine è sempre l'origine che rimane in noi. Sì, poi c'era una cosa che volevo dire. Da qualcuno è stato preso quasi come un elogio della fuga, e non è assolutamente così, perché appunto io sono partito quasi senza coscienza di partire, appunto dovevo venire qui per fare un'esperienza al conservatorio di pochi mesi, per cui non voglio assolutamente incitare alla fuga, anche se sono felicissimo di stare qua e francamente per ora non tornerei non tornerei facilmente o comunque intenzionalmente in Italia a vivere. Però non vuole assolutamente essere un elogio dell'abbandonare la barca, insomma, anzi. Però un'altra cosa, è vero che da fuori probabilmente, siccome si è meno immersi nel circolo e nel circo proprio delle informazioni, dei media, della confusione, ti accorgi molto più facilmente di come in questi anni stavano andando le cose. Almeno io me ne accorgevo, e sembrava quasi che fino a settembre scorso nessuno in Italia se ne fosse accorto. Poi a un certo punto, almeno tempo fa, vedevo una trasmissione che analizzava i consumi degli italiani. A settembre scorso gli italiani hanno scoperto tutti di essere senza soldi e in crisi. E così da un momento all'altro, come se fino a un momento prima pensassero che era una situazione che capitava solo a loro, ma che non era condivisa da tutti gli altri. Poi a settembre hanno scoperto che veramente tutti eravamo così, allora hanno tirato la cinghia, hanno interrotto i consumi e così via. Mentre invece qui da fuori penso che si percepisse anche prima il degrado non solo economico ma anche culturale che c'è stato in questi anni. Sì, quindi io adesso vorrei anche fare lanciare questa domanda ad Antonio, perché tu dicevi effettivamente possiamo sostituire povera Italia con povera Spagna. Oh, veramente povera Spagna, povero Portogallo, l'abbiamo detto all'inizio. Sì, all'inizio. Povera Grecia, alla fine povera Europa, se questo non cambia, no? Perché tutti adesso dependiamo degli altri. Il mondo è troppo grande e l'Europa è molto piccola. Siamo tutti insieme, alla fine forse parliamo altre lingue, ma io veramente ho fiducia nel concetto europeo e penso che il futuro è lì, tutti insieme, no? Quello che dicevi prima, Giacomo, forse il problema è che quelli che partono adesso perché non hanno un'altra uscita, non è una scelta libera, perché vivere all'estero è un'esperienza incredibile, ma forse sì, quelli che sono qua perché non possono essere con una vita digna, no? Si dice in italiano, a casa, questo è il problema, no? Non so, penso io. Ma io penso che partire è sempre un esercizio di libertà comunque. E se qualcuno lo fa, comunque è merito, cioè voglio dire, è merito suo, nel senso che esercita la propria libertà e fa una scelta. Ci sono tanti invece che semplicemente non partono, per cui non è che io mi sento il povero emigrato che è dovuto partire forzato. Mm. Siamo fortunati a stare qui, penso. Sì, sì, sì, sì, no, anch'io lo vedo così. E rieccoci in studio sui Colori dell'Anima, Radio Alma. Se volete telefonarci, il numero è lo 02-345-2656. Se invece ci volete scrivere, i colori dell'anima, @radioalma.eu. Questa trasmissione, come le altre precedenti, potete trovarle anche in podcast su radioalma.eu/icoloridellanima. E siamo qua ancora in studio con Giacomo Lariccia e Antonio Montalbán. E Antonio Montalbán, esatto. E allora adesso, Giacomo, visto che abbiamo parlato di viaggi, stiamo parlando di viaggi, le tue canzoni sono ricche di viaggi, ecco. Anche in bicicletta? Sì, anche in bicicletta, nonostante molti hanno pensato che io sia un fan della bicicletta, ma non è assolutamente così. Me ne hanno rubate 3 ultimamente, quindi non ci posso più andare. Basta. Ho smesso di comprarle, sto cercando di smettere di comprarle. Però ci sono alcuni brani del mio disco che parlano di un viaggio in bicicletta fatto subito dopo l'8 settembre, quindi fra il 43 e il 44, 1943-1944, di una persona che si chiama Cancione, che era l'attendente, cioè l'assistente, il servitore di un tenente. Dopo l'8 settembre lo sbando, l'esercito italiano si trovava allo sbando, si rifugiano a Roma e da Roma un bel giorno questo attendente Cancione calabrese ruba la bicicletta del tenente che stava con lui, e qui si interrompono i racconti che io sentivo quando ero bambino, perché questo tenente era mio nonno, e iniziano le mie canzoni con le quali ho cercato di regalare a questo attendente Cancione un ritorno a casa più piacevole e tranquillo, e uno di questi pezzi si chiama Scendo pedalando. E questo è Scendo pedalando, Giacomo Lariccia. Potete trovare il suo album su nei migliori negozi, Colpo di Sole, giusto? E anche su iTunes e sul mio sito, attraverso il mio sito, esatto, giacomolariccia.com. Tra l'altro, Colpo di Sole, come mai questo nome? Ma forse per la mancanza di questo elemento in questa terra. No, è uno dei brani del disco rappresenta un po' nel disco un po' l'idea dell'energia che ti fa cambiare, che ti fa andare avanti. Il sole, il colpo di sole, è la forza che ti porta a cambiare. Come quel colore rosso di prima. Esattamente, voilà. Ecco, perfetto. Ma Giacomo, io vorrei chiederti una cosa. Qual è la canzone che di questo disco ti piace di più? Quella che proprio per te è la più bella? Questo è come chiedere ad un padre qual è il no. a chi vuoi più bene. No. Boh, allora quella che per te è più importante, ha più senso, è più significativa. Il viaggio più bello che hai fatto in queste cose. Allora, quella che mi diverte di più è sicuramente l'ultima del disco, che si chiama Sant'Ecciomo, che è una bellissima. Che è una canzone arrangiata come una pizzica. Perché mi fa anche quando la canto, insomma, mi viene, anche se è difficile da cantare perché uno scioglie lingua più che una canzone. E l'attendente canzone in bicicletta anche mi piace molto, ma voglio dire, è proprio difficile da rispondere. Ok, ma è una domanda sensata, perché io ho parlato spesso con parlando con alcuni artisti, creatori, anche pittori, scultori, dicono che le opere più apprezzate dal pubblico, dalla gente, sono quelle che l'artista stesso trova insignificanti. Tipo quelle che magari la canzone è scritta così per caso, per divertirsi, con un testo non tanto importante, piace tantissimo, mentre quella su cui veramente hai sudato, quella che ha un senso profondo. No, questo non è il mio caso, nonostante. No. Okay, però forse. Forse adesso l'energia affettiva, la passione che provo nei confronti delle canzoni sono verso quelle che sto scrivendo ora. Ah. Ma non perché siano più belle, le repliche più belle, semplicemente perché c'è una fase di emozione, di raccolta di ricordi e di idee che più personali? No, non più personali, ma che è un bel momento, quello della creazione, è un momento molto bello. Poi c'è la registrazione, la produzione, la proposta agli altri, vedere come gli altri reagiscono. A volte stupisce, appunto, per me il fatto che Povera Italia abbia avuto, sia stato così, così visto 12.000 volte in un paio di mesi su YouTube, poi è passato in televisione, su Rai 2, su Rai 3, adesso ripasserà su Rai 1, insomma sul TG1, TG2, mi ha fatto impressione, perché non avrei mai pensato che potesse avere questo successo. Però ripeto, forse l'emozione più forte adesso è per le canzoni che sto scrivendo ora. Mm-hmm. Allora perché sono ancora fresche, perché sono ancora nuove, perché lo stato d'animo con cui uno le scrive è ancora così tangibile, così vicino ancora. Sì, ancora giovani. Mm-hmm. Ok. Vorrei fare una domanda a Antonio. Non so se hai scritto anche tu canzoni nella tua vita precedente. Non sono così artista, mi piacerebbe, però lo lascio per i professionali, per i professionisti, no? Come si dice? Però prima parlavi di viaggi a solo che hai fatto e di altri che farai magari. Hai fatto un viaggio a solo in Argentina? Non in Argentina, sono stato... Ho fatto un viaggio qualche giorno in Messico. Per il viaggio che ho fatto da solo che mi è piaciuto di più, forse molto tipico, no? Però è il cammino di Santiago. Sì, bello. Sì. L'ho fatto due volte, la prima volta con la mia ragazza e la seconda volta da solo. È veramente un'esperienza unica. Ci sono tanti italiani lì. Penso che un viaggio che ognuno dovrebbe fare almeno una volta ogni 5 anni. Ma non nella vita, non una volta nella vita. No. Ogni 5 anni. Ogni 5 anni, perché veramente ti dà il tempo di riflettere, il tempo per te, dimentichi tutto quello che hai nella tua vita di ogni giorno. È veramente un'avventura che ha un'origine, un comincio, un inizio, un giorno. ci sono tanta gente che viene da tutto il mondo e che cominciano a andare a camminare da, non lo so, in Spagna, e poi dopo una settimana, due, tre, quattro, non lo so, dipende dal tempo di ognuno, arrivano tutti insieme a Santiago, e sono altre persone, hanno fatto amicizia, si hanno scoperti, hanno scoperti gli altri, e poi ritornano alla sua vita di sempre, no? Non lo so, veramente un viaggio esterno, un viaggio interno, un viaggio anche nelle relazioni, cioè ti trasformi anche nelle relazioni, è stato, sì, da solo, nella relazione con te stesso. È un viaggio economico, culturale anche, perché conosci la Spagna, forse se hai il tempo vieni dall'Italia a piedi, non lo so, ci sono... Bellissimo. Allora ti dico una citazione, dimmi cosa ne pensi, comunque un po', penso comunque lì, insomma... riviene un po' quello che hai detto, e dice: gli uomini viaggiano per stupirsi degli oceani e dei monti, dei fiumi e delle stelle, e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi. E io non sono d'accordo con questo. Tu non sei d'accordo? No, io penso che tutto quello, il paesaggio, veramente è una parte importante del viaggio, però uno stesso, se hai letto L'Alchimista, per esempio, questo libro parla della vita come un viaggio, e alla fine un viaggio circolare un po', no? Forse no, non è così, però io sono d'accordo che un viaggio è ci sono tante cose da scoprire nel mondo e in se stesso. E allora un'altra citazione: i viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. Che ne dici tu? È troppo filosofica. Questa contraddice l'altra, però, sì. È il contrario dell'altra. Io cito, vediamo un po' cosa esce fuori. Io penso che è così, no? Vediamo tante cose, ma non lo sappiamo che sono... dentro di noi, no? Io per esempio, quando sono venuto qua in Belgio, avevo molta paura. Era una cosa che mi attirava moltissimo, perché mi faceva paura, no? Lasciavi tutto, cioè tu avevi deciso. Io sì, tutto, io lo lasciavo tutto. La macchina, due giorni però, perché per me era un challenge, no? Era una sfida. E questo mi attirava di più, e ogni giorno io non potevo dormire, perché mi chiamava e un giorno ho detto: devo andare all'estero, devo anche partire, perché se no smettevi di dormire, sì, morivi. Sì, non potevo. E adesso sono molto più sicuro di me, e ho scoperto che sono capace di farlo tutte le volte che sia, e ovunque, no? Non lo so, è qualcosa, un'esperienza veramente se unica. Se puoi, sì. La libertà di cui parlavi prima, Giacomo. Ma tornando alle citazioni, io ne ho un'altra di Giacomo. Per Giacomo, di Giacomo, giusto? Francamente, sì. Essere citato dopo Sant'Agostino mi imbarazza alquanto, perché sono onorato. Un certo Fernando Pessoa. Allora, qualunque. Je pense que la plus grande révolution dans le monde, on peut la faire dans sa vie, dans sa propre vie. Traduzione, sì. Traducono. Traduci, sì, grazie. Penso che la più grande rivoluzione nel mondo si può fare nella propria vita. Ma è l'idea di prima, cioè il fatto di cercare qualcosa all'esterno e passare accanto alle ricchezze che si ha dentro. Quindi pensare di rivoluzionare il mondo senza partire da una rivoluzione del proprio cuore. Pensare di come si può dire, andare a manifestare per la pace, non so, in Medio Oriente, e fare a botte con il vicino di casa. Per cui penso che tutto inizia da dentro, e che se non inizia da dentro è una finzione. Ma siamo veramente, pensi veramente che siamo capaci di cambiare qualcosa dentro? O forse col tempo ci ritroviamo in tutti i viaggi, alla fine ci ritroviamo con noi stessi, con gli stessi di sempre? Ma io penso che la vita sia un tentativo continuo di cercare di far assomigliare sempre di più quello che vogliamo essere a quello che siamo. però non si finisce mai, perché insomma siamo pieni di contraddizioni, siamo pieni di errori, così via. Però la serenità e la pace totale, secondo me, non sia viaggiando 2000 chilometri, ma cercando l'armonia dentro se stessi. Per cui e questo è in tutte le cose, come nel buttare una cartaccia per terra o nel aiutare una persona a attraversare la strada. Sto dicendo proprio le stupidaggini, fare un sorriso a qualcuno che ti si avvicina, insomma, cercare di rendere il mondo un po' meglio di come l'hai trovato. Insomma, adesso così proprio per fare una citazione proprio super scout terribile ecologica, esattamente. No, ma nel senso che invece di andare a cercare di cambiare l'esterno, cercare quello che abbiamo dentro di noi, perché poi alla fine è da lì che nascono i litigi, le guerre, da dentro di noi. Se ognuno lo facesse, staremmo sicuramente tutti in pace. E proprio perché hai parlato di guerre, c'è un'altra frase che in una canzone, l'attendente cancione in bicicletta, che parla del ritmo della pace. Mm-hmm. Tu dici a un certo punto che nasce un ritmo della pace, e la parte precedente non me la ricordo più, però dice: se noi schiocchiamo insieme le dita. Sì, questo ritmo della pace nasce dal silenzio, dalla distruzione della guerra, perché questo attendente cancione prende la bicicletta, come abbiamo sentito, scende pedalando e va verso il sud, no? Allora dice che la guerra comunque lascia tutti perdenti, non c'è un vincitore, e che dalle bombe, dal silenzio delle bombe, si può rinascere, facendo rinascere da noi stessi questo ritmo tutti insieme, schioccando le dita. Poi insomma c'è pure naturalmente un valore musicale durante i concerti, la gente batte le mani insieme. Esattamente. E l'idea appunto è questa di che ogni un piccolo sforzo da solo, se unito a un piccolo sforzo di tante altre persone, diventa un ritmo enorme, diventa una cosa coinvolgente. Ma è anche un'immagine molto bella, trovo, perché a volte quando si parla di pace si pensa al silenzio, alla tranquillità, assenza di conflitto, assenza di problemi. Invece immaginare la pace come qualcosa di ritmato è un'idea molto più creativa, molto più vivace, quindi la pace è altro. È più musicale, sì. Lì c'è la contrapposizione tra il ritmo della pace e la distruzione, il rumore assordante delle bombe. Sì, sì. E se invece continuo, nella canzone Camaleonte parli, adesso non ricordo più esattamente, insomma con precisione la frase, però parli di amore, l'amore che spinge in sostanza a cambiare, a trasformarsi, no? Che spinge a decidere. Sì, Camaleonte, che è l'unica, se non sbaglio, l'unica canzone d'amore che tratta vagamente l'amore nel mio disco, parla di questo camaleonte, che altro non è che la più comune delle bestie umane. Che ce l'ho a casa, infatti. C'è proprio camaleonte come un cagnolino. No, delle bestie umane che ha difficoltà nello scegliere, che a volte si nasconde, si mimetizza dove sta. Però questo appunto la canzone dice: nell'amore non è possibile, perché o scegli o l'amore muore. E quindi questo camaleonte che era andato avanti per 40 anni nella sua vita senza mai scegliere, senza mai, è costretto a scegliere. Lei gli chiede di scegliere e lui dice: non posso scegliere, un po' perché non l'ho mai fatto, un po' perché amo troppo me stesso e quindi sono troppo concentrato su me stesso per uscire fuori da me, per un viaggio fuori da me, vedi? Ecco, tutto ritorna. Tutto ritorna al viaggio. Ma la vogliamo sentire un'altra canzone? Dai, sì. Altra canzone? Quale? Camaleonte, io mi piace. Camaleonte. E questa canzone è piaciuta tantissimo, Antonio. Tutte. Bellissima. Io vorrei fare un po' la parte critica. Sono venuta dall'altra parte della regia per ascoltare la voce dal vivo di Giacomo, perché da questa parte si ascolta dalla radio ed è molto molto piacevole, e soprattutto ripensando a quello che abbiamo detto prima della trasmissione, il fatto che tu spiegavi che hai cominciato a cantare in italiano perché ti sentivi più a tuo agio, molto più tranquillo, ed è proprio così, mentre canti si vede che sei nel posto in cui dovevi stare proprio in questo momento, e è una voce che trasmette, interpreta veramente quello che dice. Quello che dice. Grazie. Quello che dice. Sì. E allora, sono arrivati, siamo quasi, sono gli ultimi 10 minuti. Siamo sempre sui colori dell'anima. Grazie! Se ci volete chiamare, il numero è 02345-2656. E invece su internet, su radioalma.eu. Yeah! Scusate. Bello. Torniamo nella realtà. Però è la realtà. Allora, tema del viaggio, umanità, creatività. Direi che di creatività ne è uscita creatività di vita, creatività di esperienze, creatività nelle canzoni di Giacomo, nella tua vita Antonio, nella tua libertà di scegliere ancora e di nuovo. E per il futuro invece, che desideri di viaggi avete? Devo iniziare io, questo così ho un po' di tempo per pensare. Domande difficili per passare. Due camaleonti. Due camaleonti qui con noi. Domande di, beh, così a bruciapelo, insomma, uno ci deve un po' riflettere. Ma per il momento io non ho assolutamente intenzione di cambiare viaggio né di cambiare strada, per cui in generale le strade e i viaggi in cui mi trovo, appunto, sono più che altro interni e riguardano me, riguardano la mia famiglia, riguardano, per cui, e la musica anche naturalmente, per cui voglio proseguire su questa strada dritto spedito, perché mi piace da morire, tutto quello che faccio mi piace molto, e quindi non voglio assolutamente cambiare, cioè cambiare viaggio, cambiare strada sarebbe difficile per me. Vai, ora tocca a te. Antonio. Per me, forse il mio caso è un po' diverso, no? Perché io ho molte possibilità, diciamo, nella mia vita personale. Non ho una ragazza, non ho una famiglia, non ho bambini. Adesso ho anche deciso di lasciare il mio lavoro. Un annuncio, questo. Non è il mio lavoro. È un annuncio. Non ho ragazza, non ho famiglia. Sì, poverino io. No, non è vero, perché sono molto felice perché l'ho scelto io così, no? E adesso mi chiedo che cose voglio fare, voglio vivere molte esperienze ancora, o forse una cosa più chiara ogni giorno è che mi piace molto Bruxelles, ho una famiglia qua, i miei amici, la mia coinquilina. Grazie. Anche adesso avete scoperto anche le mistere. Quindi almeno una casa ce l'ha, siamo sicuri. Questo. Almeno una casa ce l'ha. Non ho un lavoro, però una casa. Per, sì. Una mezza famiglia. Non lo so, adesso mi piacerebbe. Vivere altre esperienze professionali e anche personali, no? Soprattutto ma qua a Bruxelles, perché ogni giorno qua imparo tante cose di tutti, no? E su tutto, no? L'amicizia comunque per te sono stato un altro viaggio. L'amicizia è stato veramente un viaggio, sì. Qua ho scoperto amici che sono di altre culture, ma nel cuore condividiamo molte cose, no? E questo mi fa pensare molto, no? E questo non ci sono soldi nel mondo per pagare tutto questo, no? Assolutamente. Poi fra espatriati, o meglio fra emigranti, perché mi piace molto di più, molto più terrosa la parola. Si fa molto famiglia fra amici, cioè non si hanno lontane le famiglie, però e questa è una sensazione bellissima, il fatto di sentire di fare famiglia con le persone che ti stanno intorno, per cui fai delle cose con gli amici che non avresti mai fatto se fossi stato nella tua città con... Assolutamente, sì. E quindi prossimi viaggi, Antonio? Viaggi fisici, no? Viaggi fisici questa volta. I prossimi viaggi sono per me... vado in Spagna per un fine settimana e poi vado in Turchia, che non ho mai visitato, sì. E dopo la mia prossima esperienza personale di viaggio sarà in Malasia, per due settimane, da solo, sì. Col mio zaino. Non so, vediamo. Mandami una cartolina. Non torno senza la cartolina. Ma esistono ancora le cartoline? Sì, spero di sì. Perfetto, allora io direi a Giacomo invece, tu hai qualcosa, qualche evento? Allora, il mese di maggio sarà un mese pienissimo perché ci sarà la presentazione del nuovo videoclip al Phonograph di Bruxelles, domenica 6 maggio, presentazione del videoclip e concerto, un mini concerto. Poi andrò a Roma una settimana per alcune interviste in radio, alcuni concerti, dal 15 al 21. Il 27 maggio c'è il apro il concerto di Daniele Silvestri qui a Bruxelles, per i diamanti del genere. Forse, ma ancora non posso dirlo, c'è un altro evento ancora più importante sempre qui a Bruxelles, però ancora non è confermato, quindi non posso dirlo. E aprile c'è un concerto nelle Fiandre, a Belsele, che non so dove sia, però... non è lontano Google da Bruxelles, Google Map, e poi appunto quindi l'Italia, poi luglio in Gerusalemme, in Israele, e poi di nuovo in Italia per concerti, spero una tournée con tutto il gruppo. Bello, e le informazioni tutte le potete trovare sul sito, www.giacomolariccia.com. E ricorda anche se vogliono acquistare il CD. Colpo di Sole si trova o alla Piola, oppure nei migliori negozi di dischi, che ormai sono pochissimi, quindi sono più che migliori, sono gli unici. Oppure i sopravvissuti. Oppure anche su internet, su iTunes, su Amazon, su un altro che sia Bandcamp, su tutte le piattaforme digitali, oppure se volete riceverlo a casa c'è un modo attraverso il mio sito di riceverlo per posta, insomma. Perfetto. Non ci sono scuse, no? Dovete, tra l'altro lo consiglio perché l'ho comprato anch'io, è bellissimo, veramente, sì. Tutte le canzoni sono molto colorate, molto vissute anche, nel senso sono viaggi storici, viaggi in sé, viaggi bello. Ecco, quindi assolutamente compratelo. Grazie. E allora ringraziamo i nostri ospiti in studio, Giacomo Lariccia e Antonio Montalban, Cristina in regia. E cosa facciamo, l'ultima canzone? Non lo so. Mare? Mare? Mare, mare, mare. Cartolina? Cartolina, mare? Carmen Consoli? Sì, facciamo Carmen Consoli, mandaci una cartolina, che ci fa pensare al mare. Ecco. Al sole. E ringraziamo anche i radioascoltatori e vi ricordiamo settimana prossima sempre su Radio Alma 101.9. Dalle 21 alle 22, i colori dell'anima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.